di masturbatori di antenne, ci siete o non ci siete, cara? Ritirata, però infatti me l'ha portato, non mi ricordo se l'ha portato lo CDA, altro, e chissà dopo adesso, la dopo bigodiata, senz'altro. No, oh, ehi, sta già a Berchita, sto parlando, erano le 8, erano 9:25, sono le 9:10 quasi. Beh, è sempre che non faccia due viaggi, perché di solito se fa due viaggi c'è presto e torna tardi. Ti ho detto che arriverai un po' di roba, sta arrivando molta roba. Beh, cappa, e allora se penso che farà due viaggi, eh? Beh, adesso in questo periodo le agenzie di trasporti hanno un po' di materiale da consegnare. Adesso ieri su 4 o 5 discussioni, sentito neanche? Non sto seguendo niente, la verità, perché intanto a me le cose che si sentono e si discutono mentre hanno un orecchio mi escono nell'altro, non mi interessa, e continuare a fare polemiche, continuare a... me ne voglio stare tranquillo, non vivo solo di radio, c'ho una famiglia da mandare avanti, e il lavoro e altre cose, no, non mi interessa. Voglio entrare per rilassarmi, non voglio avere a che fare con pellegrini e con gente che non vuole un cazzo. Io sono come te, sono come te. Ho girato la monopolina, ho smetto tutto, ma non c'è nessuno, è morto a Siccia. Ma la verità non mi interessa, tanto mi importa che si fa qualcosa di che involontariamente ti attaccano e quindi devi lasciar perdere, no? Ti ripeto, ribadisco che non vivo solo di radio, è un hobby bellissimo, molto bello per me, questa volta ho speso veramente un pacco di soldi per realizzare quello che volevo da tanti anni, ma continuo sempre a dire che non me ne fa più, capito? Anche perché ho altre cose da fare molto più importanti che stare alla radio a bisticciare con la gente. Niente, così se c'è qualcuno rispondo, se non c'è nessuno sto zitto, ma ascoltare sempre le stesse cose alla fine la nausea diventa vomito, capito? Ah, è quello già vero, quello già vero, quando si entra uno entra giusto per discutere, fare un discorso più o meno di quello che si passa durante la giornata, non di ascoltare le solite stronzate che si sentono. E in effetti così. Sì, io sono del parere lo stesso tuo, che se si entra a discutere del più e del meno, e niente, pure le cose si lasciano tutte indietro, capito? Non serve a niente fare polemiche su quello che dicono gli altri, no? Sono cose che non mi riguardano più. Quindi niente, non so neanche di cosa stai parlando su 45 che ti ripeto, non sto ascoltando da nessuna parte, sempre fermo qua su 10. A volte mi capita di girare e sentire anche dei discorsi, per carità, adesso per la strada, adesso nessuno, c'è nessuno, ho fatto una giratina verso quei cani e niente, poi ti devo verticare, non c'è problema, ma vale più almeno, capito, no? Ma poi non me ne è fregata più nulla, pure ho girato la monopolina, aspetto tutto, se la piglia nel culo, cazzo, non sto lì a ascoltare le coordinate degli altri. E niente, attorno a noi, sì, si fatica, Claudia, lo so, è dura, e oggi si può dire stasera, e lo so, mi sono dovuto fare quasi tutto da solo. Cerco di correre. spaventoso, deve essere una cosa enorme. Sono mille impianti. Lì c'è una grossa responsabilità lo stesso, e quando sono impianti così grandi è accettato. E beh, il tempo ti vola, è la verità, perché ti vola a destra, manca lì. C'è il grido, via. Ci sono tre trattamenti di processo lì, quindi non è una cosa piccolina come quelli che c'erano e che ho fatto e che ho seguito negli anni passati qua in zona, come Lurbi, Tergo, Burti, Santa Maria Cugina, Svaledoria, Osilo, Santa Vittoria, San Lorenzo, San Lorenzo Valle, quelle sono tutte sfruttate rispetto a questo. Sono serbatoi di accumulo per l'olio, per ripeto, tutti i trattamenti commerciali, e ci sono serbatoi in cemento armato che sono alti 30 metri, capite? C'è un serbatoio che è da 40.000, quindi non lo vai a scherzare. E sulla casa delle volte non devi essere serbatoi, ma prima di tutto i bappacci anche. Un pescicare in ferro, orribile cazzo, boh! Va bene, pesante, pesante, vero? Poi fanno male i piedi, perché sono delle scale, infatti io si presumo dei tubi circolari, penso, così è, così. No, quelle scale antincendio, quelle scale antincendio, quelle croci, quelle a... piattaforma tutta in ferro e la ringhiera in ferro tutte in zingate. Ma io che sono pesanti quelle sono pesanti, di tremano i piedi, lo so, ne riconosco già. Così è. No, comunque è una bella cosa, un bellissimo impianto, e beh, sono stabilità di 180, e soprattutto bisogna stare con gli occhi aperti, molto aperti, perché è un posto molto, molto delicato, infatti è fatto per il fiore all'occhiello, quindi lì c'è gente molto grossa in quella città, quindi devi stare molto attento a non sbagliare, soprattutto con il sistema di lavoro. E quindi il primo giorno ho uscito un po' tutti, qualcuno lo conoscevo perché abbiamo già lavorato in me. Insieme qua nella zona di Sassari, due di Romana che conoscevo, uno di Pattara, e poi stamattina è venuto a trovarmi, non sai chi, finalmente, già da un anno ero lo volevo, Ciscovi è venuto a trovarmi perché ha saputo che arrivavo io stamattina, il nipote di Pinocchetto. Ci siamo, ci scusi, anche io mi dicevo. soprattutto responsabili, perché nel lavoro bisogna essere anche responsabili. Quindi quando noi abbiamo fatto il nostro, chiunque venga e vede che il processo di impianto sta funzionando a norma, l'impianto è a posto, non abbiamo motivo per poterci rilassare, ho detto cosa siamo, al 41 bis, non pensate che qua siamo in galera, qua siamo per lavorare, quindi quando abbiamo necessità di fermarci, berci una cosa, farci un caffè, perché c'è tutto, c'è una casa molto grande, una casa, un ufficio molto grande dove ci sono i bagni, le docce, i sfogliatoi, l'ufficio, il laboratorio analisi, c'è tutto. Quindi ho detto, quando noi abbiamo a disposizione il tempo anche per poterci rilassare, da parte mia massima collaborazione, se da parte vostra c'è la collaborazione, da questo momento non appendo neanche niente in bacheca, possiamo organizzarci. E fatta essere. Ecco, volevo dirti, Clarice, siccome c'ho quasi mezzo parente, un amico, Sandrino ancora ci sta lavorando con voi, Sandro Spano è a Berchida. A Berchida, e cazzo, che la Russia. E vabbè, gira anche lui, ne parlano proprio oggi. Gira anche lui, e ormai per noi è una routine quotidiana. Io mi manca solo andare a Oristano, per il resto la Sardegna me l'ho fatta quasi tutta, in 16 anni. Perciò Sandro ha la stessa mia qualifica, la mia mansione praticamente, però lui si occupa più del chimico, lui gira per le analisi, quindi ritira tutte le analisi dell'impianto, una volta che i conduttori hanno preparato tutte le analisi, hanno fatto tutte le analisi, c'è il responsabile che firma il foglio di uscita dall'impianto, lui ritira tutto, porta tutto al laboratorio e si occupa anche un po' della parte elettrica. Una brava persona, Sandrino, un bravo amico, veramente in gamba. Ci ho lavorato con Sandro, lui ha lavorato con me, io con lui, per dire, cioè, non è che siamo un po' tutti nel sistema di collaborazione, oramai. Io molta gente un po' non la conosco perché c'è stata, mi pare a, non so, mi ricordo, comunque a metà di quest'anno informata di quelli nuovi che hanno appunto fatto il concorso alle reti e agli impianti, e molti non li conosco, qualcuno di vista perché magari l'ho visto da qualche parte, ma ce n'è un bel nuovi, circa 300 ne sono entrati, circa 300. Aspetta, parecchie. No, perché lui era, mi ricordo, era, faceva servizio a Perfugas, allora, tanto tempo fa, capito, lui faceva servizio a Perfugas. Come Sandro a Perfugas, lo sto dicendo, io ci avevo Perfugas, ci avevo Castelsardo, poi tutta la parte della depurazione che era Santa Maria Covina, Svale Doria, Tergo e Burzi. E Sandro era con me, abbiamo fatto sia per Perfugas che Badessi. Deve essere fenomenale con l'impianto che stiamo lavorando tu adesso. Togli una curiosità, è quell'olio che poi, ma cosa viene poi riciclato quell'olio o va portato a qualche altro posto quell'olio lì? No, il sistema di processo dell'olio in vasca è praticamente un pretrattamento, nel senso che arrivano gli autobutti dell'olificio, scaricano nel pretrattamento, noi lo trattiamo e poi va bruciato in fiaccola, ecco perché è un impianto a biogas. Ah, ecco, è quello che non riuscivo a capire, cioè in pratica non perdono nulla, di capito? Proprio assoluto, dice uno dei più gli impianti più all'avanguardia che abbiamo in Sardegna proprio per lo smaltimento dei rifiuti speciali. mercurio di sosso, che però non lo smaltisce, lo tiene in accumulo e poi viene recuperato con le autobotti e portato via allo smaltimento speciale che è il trattamento del petrolchimico colluttore. È bello e soprattutto molto impegnativo, molto, bisogna essere svegli, caspita, e dire. È un sistema che tu magari non hai mai visto, ma non è lontano, 10, un sabato mattina che ne hai voglia, anche se sono a riposo, che non devo andare, prendiamo la macchina, andiamo a trovare i colleghi e ti faccio vedere il sistema proprio. L'impianto è molto interessante, una cosa molto, io ci ho già lavorato, ti ripeto, nella decorazione, ma a livello di biogas con meccanica 10 mai, è un bel lavoro, anche perché è tutto automatico, quindi non è tutto chi niente, sono tutte le cocche che lavorano, ci sono tantissime cose che praticamente all'avanguardia dove non tocchi niente, per dire il grigliato che è grigliato, delle griglie sollevamenti va compattato, quindi sono i compattatori che compattano e buttano dentro i sacchi, quando i sacchi sono pieni si arriva il camion gru, li carica e li porta alla discarica di Ecosembiana. Ah, è tutto automatizzato, diciamo. Tutto in automatico, allora. Sì, è tutto in automatico, non tocchi niente con le mani, è tutto in automatico, è solo che devi stare attento perché qualsiasi vasca, sia l'ossidazione, sia di chiarificazione, fluctuazione, insomma tutto quello che appartiene al trattamento, soprattutto al trattamento delle fanghe, che sono una compressa, va analizzato e controllato ora per ora. Deve essere una cosa molto molto bella da vedere, sì. E niente, sai dove sto lavorando, perché dov'è, lo sai? Io c'è a Berghida, Tura, Porto Maggiore, Cosciolina, Mara, Besciude e a volte viene anche a Tiesi. E chi va in cioccolato, compreso Tiesi. Cazzo di giro che c'è. La schettina. E poche parole fa lo stesso tuo lavoro, lo so che lui gira così. Uguale, quello che io ci avevo quest'estate sulle zone che tu sapevi, lui adesso ce l'ha su quella parte lì. Mentre io invece sono andato a Tiesi perché sono fisso lì, non è mai nessuno da noi, comunque adesso sono a Tiesi, sono fermo proprio all'interno dell'impianto. Sono lì. Ed è gemello praticamente di quello di Canica. Canica è l'ultimo che è nato perché hanno fatto tutta la parte nuova, che appunto la parte finta la velina, mentre invece Tiesi è già nato molto prima, ma la lavorazione è uguale a quella di Canica, diciamo. Positivo, bello. Cappa di Rogero, cappa Rogero. No, che grazie, io sa che mi schiaccio un pirellino, il mare è dura. Ok, mi ha fatto molto piacere così, scambiare due chiacchierine. Già ci vediamo domani, ci organizziamo tutto domani sera, che così ti avvicino anche con il microfono e così te lo controlli e via dicendo. Il piacere mio, non c'è problemi. Ti ho risposto perché avevo così due minuti da scambiare due chiacchiere, se non mi controllo apposta, dopodiché tutto mi guardo 10 minuti di televisione, mi faccio una tirata di sigaro e poi anche me la fa la mamma perché la mamma va a fare 5. Ciao Antonio, ci sentiamo e ci aggiorniamo, saluto a tutti, buonanotte, miau. Ciao, buonanotte, buon tutto e ci aggiorniamo domani. Ciao. Ciao, buonanotte.